Ciao ragazze! Ciao! Ciao! Dai, va bene, iniziamo! No, no, the secret part. The people down below, we all wanna know how to play the game of life before we got to go. He looked at me and said, I've pondered long, listening to Mother Nature's song. And let me tell you, son, life ain't just for fun, but if you want to have a ball, here's how you get it done. You got to do. Buonasera, buonasera, eccomi qua, Addo qui con voi. Buonasera alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Radio Wombat, la radio libera e autogestita di Firenze. Oggi è lunedì 12 maggio, siamo alla metà del mese e il 19.03, vabbè, giusto un minutino di ritardo, niente di che, per questa puntata 77esima di Nervature, la trasmissione che vi parla di piante, di giardinaggio, di botanica, a volte di biologia, a volte di progettazione, a volte di quello che mi pare. E così, è così. Quindi come ogni lunedì al 19 ci ritroviamo insieme per chiacchierare un po' di questi argomenti. Vi ricordo subitamente il nostro sito radiowombat.net per lo streaming e anche per i podcast di tutte le puntate precedenti, non solo mie, di tutte le trasmissioni. Sempre dal sito trovate nella sezione contatti il link per accedere al pad, che è il foglio di testo condiviso che potete usare per chiacchierare in questo momento con me in diretta. E vi ricordo comunque il link nel caso vogliate direttamente digitarlo nel vostro browser, direttawombat.vado.li. Vado proprio lì, esatto. direttawombat.vado.li. Questo è il modo per chiacchierare con me. Mi raccomando, fatelo, perché quando lo fate vengono fuori cose meravigliose. Le sentirete fra poco. Non vi tengo sulle spine, ancora non vi svelo niente, non vi svelo niente appunto di questa puntata, che vi dico solo che sarà un bel patchwork, quindi una serie di argomenti, di voci e di sorprese, ma ancora non vi dico nulla, direi di iniziare subito con un bel brano per entrare un po' nel mood che oggi mi sentivo io. Vediamo se siete dello stesso mood anche voi, fatemelo sapere. Dimmi, vado. Questa. Dimmi, vado. Vai. Well, in come the unconquerable, Your Highness Empress Sativa, the lyrical machine. When the lioness roar, no dog bark, kick it off. Wa-da-da-ding, da-da-da-da-ding, Empress Sativa, pan the mic and I go rip it up again. Watcha, wa-da-da-ding. Da-da-da-da-ding, a J-O-E, I run the place, and no, we not beg no friend, catch it. Wa-da-da-ding, da-da-da-da-ding, in the lyrics, when me spit, me say, my must can defend. Boom, wa-da-da-ding, da-da-da-da-ding, them fi know I say me rougher than them. From a little and a grow, I'm on a come on a puppy. I love we been selecting your love sound system. Brigadier, the general, the principal, a chaplain. Forward, Empress Sativa, me a top rank queen. Sit down on the rhythm like a lizard on a limb. With the mic in a me and a nigga-lietality. Me no skin tea, skylock, me no grin. Fling 45 and 30 able to spin. Have the people them rocking to the style and the pattern. Fury flows on my brush and the page and busting up a blend. Police are make a raid for wanted men. The final with no gun beside the big gun just whiffing on me end. I walk up to the tower of the control station. Them ask me what's my name and what's my occupation. I tell them it's your highness for your information. I'm at the grandmaster, we're in a ram jam session. Wa da da ding, da da da da dang and press sativa pandi my canago repeat up again. Watch ya, wa da da dang. Da da da da dang a J O E. I run the place and so no we not beg no friend. Kick it, wa da da dang. Da da da da dang. And the lyrics when me spit me say my must can defend. Boom, wa da da dang. Da da da da dang. Them vino a semi rapper. But sick them all up, hot breath with tough chest. Score them face and above chest. Jealous for every day, impressativa, the anchor can rip one much less. Frightened fit the entourage of OOOs and Santa Claus. My up and love to hold them soft. Lyrics to chop in the peanut ass. In the part exposing, then the fast or crows. Him, shouldn't have this as supposing. Up when nobody knows them, not a jando. My flow is so intricately orchestrated. Rated as the greatest, real MC the king created. We tell them boom, wa da da ding. Da da da da dang, Empress Sativa pon the mic and I go rip it up again. Watch ya, wa da da dang. Da da da da dang, a UTH I run the place and now when I beg no friend. Kick it, wa da da dang. Da da da da dang, and the lyrics for me spit me some my must can defend. Wa da da dang. Da da da da dang, J-O-E for life. Sir Grace to the Fox, tarnish your name every day that my chat. Smile to the face, back turn them, I talk to my giant pan, a man clock, word them, I watch. Wrist that we use on the blunts of a rap friendship, refusing the minds of my plot. Island powder, ropes tight, now start a deep 06 suit deep. From a drop on the feet, so if in this, I be no mistop. Not even a strand, I'm a locks of the touch. Queen pan, throw enough of them, there's a cut to the crown, pan the head, and I breathe like a snatch. Gas, me dash, and me the lash. Bound the pagans of a sprinkle. Falling rain on the drain, them, I watch them kill up themselves, but when I was a lash. What da da ding, da da da da ding, Empress Sativa, pan the mic, and I go repeat up. Wa da da ding, da da da da ding, a J O E I run the place, and no we never beg no friend. Wa da da ding, da da da da ding. Bless up Melamu, give thanks, you know. King Selassie is the Almighty. Ja, through them, give thanks. Give thanks, give thanks. Bless it. Okay. What? Yeah. Yes, I. Simperex are gonna represent. E buonasera, eccoci qua di nuovo con Cecilia, la giardiniera. Questo è 30D Conta le Gemme, la rubrica dei lavori del mese. Oggi che mese è? Siamo a maggio, metà maggio, ancora non siamo riusciti a fare questa rubrica all'inizio del mese, ma piano piano ci arriveremo. E quindi sentiamo un po' cosa c'è da fare in questa stagione di primavera così rigogliosa e colorata. Partiamo magari dalle piantumazioni, se c'è qualcosa che va bene da piantare in questo periodo. Allora, intanto un saluto e ben ritrovati su queste onde. Dunque, sì, piantare, possiamo ancora piantare qualcosa, ma consideriamo che siamo un po' agli sgoccioli, perché piantare a ridosso del grande caldo non conviene mai. Se poi abbiamo l'idea di un giardino sostenibile, ecologico e quindi con un limitato uso di acqua. Infatti quello che è possibile piantare in questo momento sono le piante che sopportano più condizioni estreme di caldo e di aridità, e ci rivolgiamo in questo senso alle piante mediterranee. È ancora possibile dunque piantare lavande, salvie, elicrisi, timo, e tutte flomis, piante mediterranee appunto, che di loro natura hanno una richiesta idrica molto molto bassa. Però piantando adesso, in ogni caso, c'è da fare un po' di attenzione con le irrigazioni, perché comunque si va in una stagione appunto calda e speriamo non troppo siccitosa, e quindi vanno un po' aiutate per affrontare bene l'estate. C'è da dire anche questa cosa comunque, che le piante ormai con i cambiamenti climatici, dico le piante perché è una cosa molto generale, piante a cui siamo abituati nel nostro, insomma, che abbiamo l'abitudine di piantare ma anche di vedere in giardini altrui, ormai hanno cambiato un po' il loro modo di gestirsi, e quindi in estate vanno a un vero e proprio riposo vegetativo. Questo per dire che è inutile annaffiare abbondantemente anche solo un cisto, notoriamente una pianta mediterranea per giardini aridi, è inutile annaffarlo abbondantemente, anzi lo andiamo proprio a disturbare se lui a luglio comincia il suo periodo di riposo vegetativo. È come se durante un sonno profondo, questo è un po' una metafora, veniamo ripetutamente svegliati da scosse esterne e che vanno a disturbare il nostro stato in quel momento sonnolento. Quindi sì, anche di questo argomento già ne ho parlato in un'altra puntata diversi mesi fa a proposito delle rose, che quindi magari non sono le piante da aridità per eccellenza, ma che comunque questo discorso si applicava anche per loro. Quindi se volete andare a rispulciare quella vecchia puntata, che numero fosse, ma insomma è assolutamente vero, le rose in estate, anche quelle a fioritura continua, ormai vanno totalmente a riposo vegetativo e cosa fanno? Smettono di fiorire e perdono anche molto spesso, perdono tanta vegetazione, tanta foglia. In quel caso bagniamole una volta a settimana, tanto abbondantemente, in modo che l'acqua cali in profondità e la radice segua il corso in profondità dell'acqua, ma è inutile bagnarle spesso, anzi si crea proprio un effetto contrario a quello desiderato, andando poi a disturbare appunto questo loro stato e rischiando anche di un'accelerazione ad esempio nelle malattie o marciumi, perché loro sono totalmente a energia ridotta e dunque l'acqua solo per mantenerli in vita. Dobbiamo aspettarci che non fioriscano, che siano brutte, e da lì tutto il discorso che un giardino, una monocultura non sta più in piedi ormai. È importante proprio piantare anche le rose, ma combinate con altre piante che creino un habitat e comunque dei punti di interesse anche nei periodi estivi. Per quanto riguarda la riproduzione, quindi le semine e le moltiplicazioni, cosa possiamo fare in questo periodo? Allora, anche qui non è proprio il momento migliore per seminare, proprio per il discorso che siamo a ridosso del caldo. Comunque, se proprio vogliamo seminare piante ornamentali da giardino, rivolgiamoci a quelle piante che hanno una fioritura tardo estiva autunnale. Quindi mi vengono in mente le cosmee, che sono bellissime, sono dei bellissimi fiori che fioriscono appunto in tarda estate e il primo periodo dell'autunno, ma anche gli aster, chiamati settembrini, possono essere seminati adesso, anche dei tagetes, anche loro possono germinare rapidamente in questo periodo e fiorire in estate. Per quanto riguarda invece la moltiplicazione, io personalmente aspetto ancora un po'. Per me il momento migliore per la moltiplicazione di una vastissima gamma di piante, comprese le piante mediterranee ma anche le rose, è da giugno più o meno, da giugno barra luglio. Quindi per quanto riguarda le rose, io riproduco da talea in quel periodo, appunto giugno-luglio, prelevando il ramo che andrò a taleare da una ramificazione che ha sfiorito da poco. Quindi questo è, e sono sicura che quello andrà rapidamente a radicare. Una volta taleata dovrò conservarlo in dei vasetti posizionati in una zona abbastanza ombreggiata e quindi non esposti assolutamente al sole diretto, e poi bagnati con una certa regolarità, ma facendo molta attenzione che non si creino ristagni idrici, perché andrebbero a compromettere l'attecchimento radicale e quindi marciumi radicali. Questa stessa operazione la opero per tantissime piante mediterranee che coltiviamo, che coltivo, e anche lì aspetto appunto che sfioriscano, ad esempio le Phlomis, tutta la grande meravigliosa famiglia delle Phlomis, Phlomis purpurea, Phlomis permarina, la frutticosa, la russelliana. Io le riproduco di talea intorno al mese di giugno, ma anche elicrisi, lavande, rosmarini, salvie, sia le salvie commestibili che quelle ornamentali, le faccio sempre in questo periodo. Quindi aspettiamo ancora un po' a riprodurre. Certo, poi sperimentare è sempre interessante e sono convinta che anche riproducendo adesso si otterrebbero buoni risultati, ma io in questo momento tendo più a godermi il giardino dopo le grandi fatiche invernali, e questa è un'operazione che rimando più avanti. Ok, per quanto riguarda le potature invece? Allora, per le potature dipende, nel senso che le piante sono tante e hanno abitudini, esigenze completamente diverse l'una dall'altra. Allora, per quanto riguarda le rose, che comunque coltivo in abbondanza, non applico potature particolari, mentre mi dedico tantissimo alla sbocciolatura, cioè a togliere la prima parte del ramo che ha sfiorito, per stimolare quello stesso ramo a produrre in breve tempo un'altra fioritura. Quindi tenere in pratica le rose pulite dallo sfiorito. Anche su questo c'è da fare comunque attenzione, perché le rose sono tante, hanno caratteristiche molto diverse, ci sono tante rose anche tra quelle rifiorenti che producono bellissime bacche ornamentali. Se vado a togliere i fiori ridurrò la presenza delle bacche autunnali. Quindi è una cosa da tenere in considerazione. Ho più fiori adesso nella stagione primaverile ed inizio dell'estate, o più bacche in autunno-inverno. Per altre potature, quello che posso fare adesso è cominciare a pensare, anche se comunque è molto presto, a potare arbusti a fioritura unica che hanno già sfiorito, come ad esempio le forsizie o ad esempio... il rosmarino forse anche sta arrivando a sfioritura quasi. Sì, il rosmarino sta arrivando a sfioritura, lo possiamo anche lì ripulire e ridare una forma alla pianta sicuramente. Per quanto riguarda la forsizia, lei è un arbusto che fiorisce sui rami vecchi, sui rami che hanno passato un inverno, quindi se io taglio adesso la pianta e la stimolo a ricacciare della nuova vegetazione, quella vegetazione che lei mi produce adesso fino all'autunno passerà all'inverno e quindi andrà a fiore. Ecco, questa è una pratica che conviene fare su tutta una gamma di arbusti di questo tipo, che hanno fioriture uniche, che sono già sfioriti e che fioriscono sui rami del secondo anno. Certo, ho capito. Direi il grande argomentone del diserbo e della pulizia, che forse in questa stagione è magari il più impegnativo. Certo, il diserbo è davvero un leitmotiv del giardino e del giardino. Comunque, se è possibile, cercare di diserbare dopo una pioggia e quindi riuscire anche a estirpare la radice, questo è un consiglio che mi sento di dare. E poi comunque operare un diserbo ragionato, perché non tutte le piante ritenute generalmente delle infestanti e le classiche erbacce lo sono realmente, ci sono delle erbacce che hanno anche un loro peso ornamentale, quindi lì magari cercare di limitarne qualcuna e non andare troppo con la mano pesante, sfruttarle magari anche se c'è una iola dove c'è dei vuoti, nel senso di spazi in cui io non ho piantato o che le piante che ho messo mi sono morte magari per qualche ragione. Certo. Posso sfruttare questo aspetto e lasciare in quel luogo lì alcune spontanee che mi piacciono. Certo, anche perché consideriamo che vanno anche a fiore molte di queste piante, quindi sono comunque appetibili per gli impollinatori, hanno il loro ruolo in giardino. Così come consiglio, per esempio, se ci sono delle zone a prato, di lasciare andare proprio le erbacce a fiore, come non so, il Tordillium apulum per esempio, il Cerastium vulgaris, che secondo me è bellissimo. Facciamole andare a fiore queste piante e invece passiamo il tagliaerba solo in alcune zone che viviamo di più, sempre per il concetto di mantenimento e salvaguardia della biodiversità. Hanno certo un loro ruolo, una loro importanza proprio nell'equilibrio del giardino, quindi fare tabula rasa sarebbe un po' insomma, un concetto che non è più attuale, ecco. Benissimo, sì, te l'avrei voluto chiedere, infatti è la gestione del prato in questo momento, l'hai già detto, quindi passiamo al punto dopo, come sentite? Sì, no, una cosa che invece prato voglio dire è che il tappeto erboso, così chiamato, anche se proprio non sopporto questo termine, comunque il prato, cerchiamo di rasarlo abbastanza alto, perché dove si lascia un pochino più di altezza rimane più fresco alla base, quindi riesce a cavarsela meglio con le giornate calde e ventose. Giustissimo, certo, certo. Ed anche un aspetto un po' meno rigido, un po' meno formale, magari. Esatto, un pochino un più anche wild. Piacere. Sì, sì, sì. E, sì, come sentite, ascoltatrici e ascoltatori, stavolta abbiamo provato a strutturarlo un po' più in capitoli. Quindi, appunto, passando al capitolo successivo, gestione delle malattie e dei parassiti vari. Questo è un argomento nel quale non sono ferratissima, confermo, ammetto, anche perché... sono un po' allergica a tutti gli atteggiamenti che chiedono appunto un intervento con fitofarmaci. Quello che mi sento di dire è che un pidocchino qua e là non danneggia una pianta, e che comunque ci sono anche dei sistemi naturali che possono venirci incontro per combattere, tra virgolette, gli insetti dannosi. Per esempio gli afidi, se notiamo una colonia estesa di afidi, è ovvio che dobbiamo intervenire, perché loro sono insetti succhiatori e quindi succhiano la linfa delle piante, e queste naturalmente saranno indebolite, per cui conviene intervenire. Ci sono tanti metodi, anche con soluzioni fai da te domestiche, che sono efficaci. È chiaro che vanno ripetute più spesso rispetto a un prodotto comprato apposito, insomma, o un piretroide che viene utilizzato per questo, insomma, per insetti più diffusi. Ad esempio, fare delle infusi con sapone di Marsiglia e peperoncino, questa è una cosa molto molto utile ed efficace per gli afidi. Oppure i macerati di ortica, che sono ottimi perché vanno a rinforzare la struttura della pianta, che riuscirà a metabolizzare le diverse difficoltà che si possono presentare. Quindi il macerato di ortica è davvero una soluzione molto molto buona e si può fare in casa facilmente. Le ricette sono anche molto semplici, vi consiglio comunque di andarle a leggere un po' online, ce n'è di tutti i tipi e molto facili da fare. Per quanto riguarda certe malattie che sono legate all'insorgere di malattie fungine causate da temperature calde e umide tipiche di questo periodo primaverile, una passata di ramato conviene, non solo sulle rose ma anche su arbusti, ad esempio lauro, alloro, fotinie, anche loro tendono a sviluppare ticchiolatura o idio, e quindi insomma, con il ramato si riesce a fare tanto. Oppure se avete un pergolato con la vite, questo diciamo è il momento ultimo per poter intervenire prima che maturi il grappolo d'uva, e questo è molto importante per prevenire ad esempio la peronospora, che è un fungo micidiale, quello sì davvero micidiale, che va controllato assolutamente. Benissimo, siamo quasi alla fine, quindi cosa ci puoi dire riguardo a concimazioni e anche rinvasi, eventualmente magari per chi ha balconi o per chi ha giardini di vasi, giustamente? Beh, allora, per quanto riguarda la concimazione, se non è stata fatta soprattutto su piante coltivate in vaso, va fatta, perché la pianta non ha altro modo di reperire nutrienti se non per mano nostra. Quindi attrezziamoci di concimi organici, a base di stallatico, cornunghia oppure pollina. La pollina è piuttosto aggressiva in realtà, quindi va dosata molto molto bene. Io consiglio di usare concimi organici e non sintetici come nitrofosca, che sono delle lente cessioni, ma che comunque hanno sono cose chimiche con processi chimici, e un eccesso di nitrofosca può causare davvero molti danni e stressare parecchio le piante, mentre un eccesso di concime organico in realtà non causa grandi problemi, perché la pianta è in grado di metabolizzare l'eccesso. Quando si concima non dimentichiamo di irrigare, perché anche lì, come metafora, è come se mangiassimo un enorme pranzo, cimbottissimo di pane, e non beviamo niente, e quindi ci rimane tutto a metà stomaco, insomma. Quindi ecco, è importante diluire il concime con l'acqua, in pratica. Per quanto riguarda la concimazione in piena terra, è naturalmente meno significativa, però se vogliamo delle piante super performanti, belle verdi, e non abbiamo concimato a febbraio-marzo, facciamolo pure adesso, sempre con attenzione all'acqua. Quando vediamo piante in vaso, anche come ad esempio le ortensie, ma anche le camelie e anche tante piante ornamentali, ingiallire dall'alto, cioè un ingiallimento della foglia dall'alto, quello molto probabilmente è carenza di ferro, e quindi possiamo apportare del ferro. Ad esempio il sequestrene è un ottimo prodotto. Ecco, anche lì possiamo comunque utilizzare dei concimi fatti in casa, come il compost domestico è estremamente efficace. Lo stesso macerato di ortica. O il macerato di ortica, che va a arricchire proprio il terreno e con effetti eccezionali. Benissimo, direi che abbiamo fatto un ottimo quadro. Se vuoi, se ti vengono in mente altri lavori, anche magari più strutturali, o comunque qualche altra curiosità. Ma per quanto riguarda l'orto non si è detto niente. Una cosa che possiamo fare, che consiglio assolutamente di fare, è posizionare in qualche zona dell'orto piante mellifere, e siamo in tempo naturalmente per piantarle, quindi tutte piante che attraggano gli impollinatori e che contribuiscano a rendere vivo e vivace il nostro orto e a farlo fruttificare di più. Posso citarvi alcune piante estremamente efficaci da questo punto di vista. Possono essere le più famose e consuete: lavande, licriso, salvie e rosmarini, ma anche piante ornamentali che abbiano fioriture a scalare nella stagione fino all'autunno, come ad esempio l'escabiosa, le echinacee che fioriscono in piena estate, le calendole che fioriscono dalla primavera a tutta l'estate, gli aster che fioriscono in autunno quando l'accessibilità di fiori per api, bombi, farfalle eccetera è più limitata rispetto alla primavera, e così anche gli allium per lo stesso motivo. Benissimo, direi appunto che il quadro è decisamente completo. Grazie ancora Cecilia, ci risentiamo a questo punto il prossimo mese. Bene, grazie a voi, buona primavera a tutti. No need vanity fi no happiness. Heart full of love on your shoes, so you're blessed. You have ambition, it no matter the address. Educate, but street smart. We live and we learn, so we no no regrets. Them a living at the past, so them always depressed. Them too literate fi count them. Too white fi realize them progressing. Can't be ungrateful. One spoon of rice and me know I'm a plateful. Them too literate fi count them blessing. Too white fi realize them progressing. Can't be, you know I dub effects. They like the vibes, big up Jehova evil. And we there, I dub effects. Yeah, da da da da da da da. Let me tell them the effect. Me a go rich. Oh, me a go rich. We tell them how we a go rich. Oh, me I go rich and say no leap a duck. Oh, me I go buy a carousel of big public transport. When me song them now pass your boat, it rough in the business and it hard to promote. Every day you walk around without no damn hope. Sufferation of your head back down a long scope. You want to sell away but you can't stay afloat. No want to get your kids them and them hard to support. Artists have to go import, strap in a barrel. Cause the music business don't come in a barrel. Your shoulder fi strong like the back of the camel. Fi fight the struggle you have to make a mill. Well every week artists step the plane and fly. Me soaking at the ghetto and a fan be a fly. Vegas and Instagram me ma show off down at Dubai. And when me I go get a small view from the sky. Me won't get booked for some fest in a July. So me nah go give up and me can't stop try. Tired for see me mother hold her belly and a cry. To the bills in the mailbox me just can't reply. A lot of people leave it double six and a lie. Me get up, they think I drop Charlie FX. Yo FX, yeah hear me. FX him up the thing we're gonna take over. We come fit. Yo! Yo, FX. Where you now? É Brasil Conexão Genève. Derrick Sound, Evidence Music. É a show. E pode crer, eu vou tocar um reggae pra você. Eu vou cantar um reggae. Por favor, que ninguém me apresse. Eu vou tocar um reggae pra você. Eu vou cantar um reggae. Por favor, que ninguém me apresse. Quanto tempo você leva pra se banhar, comer e começar a caminhar ou pegar o busão para seu trabalho? E quanto tempo até começar a trabalhar e ainda ter que escutar seu chefe reclamar que você chegou atrasado? E para mim é pouco tempo pra reclamar, pra comer e o busão esperar e ainda ter que explicar que ele chegou atrasado. E o que eu faço com o tempo que me resta? Vou me imaginar na natureza. Você acha normal um cara com 60 anos fica até as 9 da noite fazendo hora extra? E pode crer, eu vou tocar um reggae pra você. Eu vou cantar. Por favor, que ninguém me apresse. E pode crer, eu vou tocar um reggae pra você. Eu vou cantar um reggae. Por favor, que ninguém me apresse. Será errado já? Eu precisar de mais tempo para pensar. Refletir, escolher, dizem que é preguiça. Mas é que eu tô com tempo, porque a pressa, porque está correndo. A caminhada é longa e eu vou com o vento. Mas agora calma, a gente tá só no começo. E pode crer, eu vou tocar um reggae pra você. Eu vou cantar um reggae. Por favor, que ninguém me apresse. E pode crer, eu vou tocar um reggae pra você. Eu vou cantar um reggae. Por favor, que ninguém me apresse. É, meu povo, a gente tá sem tempo pra nada mesmo, né? Nem pra namorar ou a mãe visitar, é tudo na correria. Fim de semana é só 2 dias. Um pra casa limpar e dormir, outro pra ver a família e talvez curtir. E pra quem tem sorte são 5 dias, mas o resto é só trabalhar. E pode crer, eu vou tocar um reggae pra você. Eu vou cantar um reggae, por favor, que ninguém me apresse. E pode crer, eu vou tocar um reggae pra você. Eu vou cantar um reggae, por favor, que ninguém me apresse. I'm sorry, yeah. Gandhi, when I would, I'm sorry, yeah. Gandhi, Jahanama rendezvous benagmaye. rendez-vous de l'enfer. Chauffez papa. Jahanama, rendez-vous Benaban. Rendez-vous de l'enfer. Chauffez papa. Dabeo d'inferé, kakefeigné. Daobeo Jori Ferré, kakefeigné. Daobeo Teriche Ferré, kakefeigné. Daobeo Yere Ferré, kakefeigné. Hey! Jahanama, rendez-vous Bena chauffé. Rendez-vous de l'enfer. Chauffé, papa. Jahanama, rendez-vous Bena Gbaye. Rendez-vous de l'enfer Bena chauffé. Chauffé, papa. Gomeredi kake fenye Daobe namaradi kake fenye Daobe figenta fere kake fenye Daobe kunata fere kake fenye Hey Jahanama rendez-vous bena nyangami Rendez-vous de l'enfer Chauffé papa Jahanama rendez-vous bena gbay Rendez-vous de l'enfer bena chauffé Chauffé papa Piove. Dalle nuvole sparse. Piove. Sulle tamerici salmastre ed arse. Piove. Sui pini scagliosi e dirti piove sui mirti divini. Sulle ginestre fulgenti di fiori accolti. Sui ginepri folti di coccole aulenti. Piove sui nostri volti silvani. Questa era la sorpresa di oggi, questa era la sorpresa per voi, ma anche per me, vi assicuro. o meglio, sorpresa per me di una settimana fa, ma insomma ve la riporto oggi perché ne avevo la possibilità oggi, ma ve la devo spiegare. Quindi quella che state ancora sentendo in sottofondo è la strambissima puntata che ho fatto settimana scorsa, che consisteva in una registrazione ambientale di quello che stava succedendo lunedì scorso. Per chi non se lo rammentasse, quindi, era questo. Pioggia, semplicemente pioggia, ma non solo in realtà, perché, ripeto, nella strambissima puntata che avevo fatto, in questa ben ora intera di registrazioni, a momenti non pioveva e si sentono vari suoni ambientali, appunto vari uccellini e varie cose più forse rincuoranti, diciamo, della pioggia. Insomma, e quindi se una settimana fa appunto ho introdotto questa registrazione dicendo: questo è un esperimento, questa puntata, così ho avuto questa ispirazione bizzarra, provo un po' così a proporvela, fatemi sapere cosa ne pensate. Ovviamente fatemelo sapere sul pad, come sempre, che non ci sta mai male. Ricordiamo anche ora il link direttawombat.vado.li. E quindi poi io apro il pad e leggo questa meravigliosa poesia che avete sentito recitare probabilmente male da me. E che io non so che dire, perché non pensavo che potesse scaturire questa puntata una cosa tanto bella. Quindi ringrazio di cuore veramente fortemente chi me l'ha scritta. Sarei curiosa di sapere se è di... perché io di poesia non ne so niente purtroppo, quindi potrebbe anche essere di Ungaretti per quanto mi riguarda, cioè nel senso di qualcuno di molto famoso, e io non potrei tranquillamente non saperlo. Quindi sarei curiosa se chi l'ha scritta sta ancora ascoltando, sapere, diciamo, da dove proviene. Quindi ve l'ho voluta riportare ovviamente col suo sottofondo dedicato, e mi sembrava più che doveroso. E lo devo levare? Lo devo levare forse? Vi sta martellando la testa? Può essere, lo levo. Perfetto. Anzi, posso mettere una parte di registrazione dove non pioveva, se volete, in cui forse ci sono altre cose in sottofondo, vediamo se è meglio. Insomma, quindi vi ho fatto sentire questo. Prima invece avete sentito i lavori del mese, come sempre, purtroppo a metà mese, vabbè. Vediamo se riusciremo piano piano a prendere una cadenza un po' più sensata. Quindi mi raccomando, attrezzi in mano e andate su a sporcarvi le ginocchia e così a divertirvi, a godere dei vostri giardini o dei vostri terrazzi. Quindi la puntata di quest'oggi prosegue con calma, direi, e quindi, essendo che non c'è fretta, io magari metterei un altro pezzo, e come avete visto oggi sono un po' su un mood un attimino reggeggiante, così vagamente, eh? E quindi vi metto questo pezzaccio qua, dura tanto, ma vabbè, o ce lo godiamo insieme oppure lo interromperò una certa, lo scopriremo. Extra, Shawnee B in Jamaica 2020, Indignation, give me a bass line. As we do it in a rubber dub style, Pon the Hills, rock and groove rhythm, with Savannah, Jazzy Lease, Leela IK, Naomi Cowan, make we juggle, make we juggle. Make we juggle. All the times Say, Lord, I'm nice. So nice, so nice, so nice. Me never catch a vibe that felt so right. And when I'm not around, I close my eyes and fantasize. But say, Lord, I'm sweet. So sweet, so sweet, so sweet. Anytime him pass, me skin, me teeth. Him at the melody and him at the beat. So we tweet. Don't now mess up my mood. No, no, no, no way. We just a walk and a move. Come make we rock and groove. BBC One Extra, we a tell them, say, don't now mess up my mood. We just a walk and go through. Come make we rock and groove. Them say, oh, we so show off, oh, we so hype. Do we have little happiness in our life? No, you used to suffer in a day, whole night. Oh, some of my sofa for the rest of my life. Show up, make sure you grow up. Live a good life, that's your fair keep up. I'm good, so me ease, I'm a lay back. Me see the trouble, huh, me I leave that. You know my shoes and my tank top, yeah. You know my jeans, I cut off on my foot. You know my shoes with some bright color socks. Time hot, but me now go wear no flip flops. Cause I'm not mess up my mood. Me just a walk and a move. Come make we rock and groove. What we are tell them, say, come on again. None now mess up mood. We just a walk and go through. Come make we rock and groove. Say, but not tell them, tell them. Now BBC for Holland pulling. Just like up in a movie. A big bad exclusive. We make it. Oh gosh, I wanna take you with me, yeah. Quindi, come sempre, mi faccio prendere dalle canzoni e non riesco a interromperle. Perché la musica è bella, c'è poco da fare e bene ascoltare dall'inizio. alla fine i pezzi, anche se durano 12 minuti e 36. Va bene lo stesso. Allora, siamo e siete giunte alla ultima fase di questa puntata di lunedì 12 maggio di Nervature. Abbiamo sentito i lavori del mese, abbiamo sentito la poesia proprio meravigliosamente regalata da qualche ascoltatore o ascoltatrice, e ora invece farei per quest'ultima mezz'ora praticamente un'introduzione, o forse addirittura una prima volta, di una nuova rubrica che partirà un giorno partirà per bene, in cui è molto semplice in realtà. Il punto è che mi sono resa conto che è 3 anni, o non mi ricordo più quanto, che faccio questa trasmissione in cui parlo di piante, in cui però non ho mai o quasi mai troppo spiegato come le piante funzionano. Qualche volta ovviamente è capitato, e diciamo a pizziche e bocconi un po' sempre alla fine, però ho ragionato che forse potrebbe essere interessante per chi è all'ascolto appunto avere un po' più le idee chiare. Perciò si tratta di una rubrica di biologia vegetale, propriamente biologia vegetale. Non ha ancora un nome perché, come vi ho detto, ancora non la considero propriamente partita, perché devo mettere insieme un po' di pezzi prima. Però oggi faccio finta che sia partita, ecco, mettiamola così. Vabbè, insomma, scherzi a parte, comunque vi farei questa prima, diciamo, volta, appunto, prima puntatina, e mi sono tenuta l'ultima mezz'ora perché comunque appunto voglio che sia una rubrica e non che sia tutte le volte un'ora e mezzo di, diciamo, spiegazioni, perché cioè sarebbe decisamente troppo lungo da ascoltare e faticoso. Quindi per questa prima volta vorrei spiegare, introdurre, diciamo, il funzionamento delle piante in modo veramente molto generale, proprio perché è la prima volta, perciò partiamo dall'inizio. Questo è proprio il mio pensiero. Lo farò ovviamente con un po' di musichina sotto, perché per forza, se no ci si spara sia io che voi. No, scherzo. Ah, ecco, vi ricordo di nuovo, direttawombat.vado.li è il link per accedere al pad, così che se qualcosa non è chiaro potete appunto scrivere e farmi domande. Allora, partiamo. Le piante sappiamo tutti che sono esseri viventi, ovviamente ormai per fortuna questo lo sappiamo. Comunque non è una cosa scontata, perché lo sappiamo da relativamente poco tempo, troppo poco, nell'ambito scientifico ovviamente sto parlando. Quindi sono esseri viventi in quanto tali, hanno bisogno, bene o male come tutti gli esseri viventi, di vivere e quindi di nutrirsi e poi in qualche modo riprodursi. Queste sono, diciamo, un po' le due cose principali. Partiamo dal primo, dal nutrirsi. Quindi le piante hanno bisogno di mangiare e bere, anche se vogliamo, insomma, vederla così. Quindi hanno bisogno di una serie di, diciamo, chiamerei sostanze in entrata, va bene? Quindi si tratta di, bene, acqua, prima di tutto, perché l'acqua è il motore della vita, quindi è quella che serve a far muovere tutto, a far muovere le cose, a muovere il mondo, muovere la vita, appunto. Quindi le serve acqua, e poi servono nutrienti. Non servono solo queste due cose, serve anche la luce del sole, probabilmente sapete già perché. Intanto però concentriamoci sui primi due, quindi acqua e nutrienti. Entrambi arrivano dal suolo per la pianta, nel senso che la pianta li assorbe dal suolo. Poi l'acqua ovviamente si sa che c'è anche la pioggia, però nel senso che la parte di il momento in cui l'acqua entra all'interno dell'organismo pianta avviene nel suolo, quindi da parte delle radici. Questa è la macro, poi in realtà un pochino entra anche dalle foglie, ma va bene, non importa, questa è la macro. Quindi abbiamo parlato di radici. le piante hanno le radici, questo direi che bene o male si sa tutti. Le radici sono la parte ipogea della pianta, ovvero quella che sta ipo sotto, gea terra, quindi sotto terra. Proprio perché abbiamo detto hanno come una principale funzione quella di assorbire i nutrienti e l'acqua, appunto. Quindi proviamo a, diciamo, ribaltarci, e ribaltarci a testa all'ingiù e immaginare di essere con la testa sottoterra. Quello che vediamo sottoterra, se immaginiamo di essere in un campo, in un prato fiorito o in un bosco che sia, è un fittissimissimo network di radici, appunto, di tutte le piante che ci sono sopra. Non c'è solo questo, ma per quanto riguarda l'argomento di cui sto parlando io, ci interessa anche un'altra, diciamo, un'altra presenza molto importante che c'è nel suolo, che è quella dei funghi. E in particolare i funghi micorrizici, il che significa semplicemente funghi che collaborano con le radici delle piante. E quindi, appunto, noi, ripeto, se avessimo la testa ribaltata sottoterra, vedremmo un sacco di radici, un sacco di funghi, forse li confonderemmo anche. Comunque si tratta, cioè, queste radici e funghi insieme vanno a formare un grande network enorme, e con enorme intendo che non ha interruzione molto spesso. A interruzione magari quando c'è un ostacolo impenetrabile, c'è del cemento, c'è magari un masso, una roccia molto grande, e allora non è penetrabile. Ma altrimenti ci dobbiamo immaginare che, direi con ogni probabilità, delle piante che sono in Calabria, nella punta più bassa della Calabria, sono molto indirettamente in connessione con delle piante che sono in cima alla Germania, per farvi capire un po' di cosa stiamo parlando. Per dare un nome a questo fenomeno, diciamo, a queste presenze così importanti nel suolo, gli si è dato il nome di World Wide Web. Avete capito. Sempre www, punto qualcosa, però non è World Wide Web, ma è Wood Wide Web, quindi la rete di legno, insomma, fatta appunto da radici, piante e funghi. Perché sono importanti, e diciamo a noi in questo momento interessa parlare dei funghi? Perché sono quelli che permettono l'assorbimento dei nutrienti tramite le radici alle piante. See you with your crew, just a boom and uncle true, and I can tell, say you admire the realness. Look at me, looking at you, now you don't know what to do. Just relax, I know go in your feels. I'm mostly cause you spot the spliff and I'm a mouth gun. You probably think that girl that bad, I bet you love the drama. Yeah, I kinda like the vibe, but I guess I karma. Come over if you really wanna. I spy, did you see something you might like? Won't you come over if you really feel it? Ask all your questions, just I really mean. E quindi vi sto spiegando le piante, ma vi sto anche nominando, come avete visto, più volte i funghi, perché i funghi sono un elemento fondamentale, probabilmente, per la vita stessa delle piante. Probabilmente non solo delle piante, probabilmente anche di noi, come anche lo sono i batteri, ma non allarghiamoci troppo. Quindi, funghi, radici, assorbimento di nutrienti, acqua. Ok, dove vanno quindi questi nutrienti e questa acqua? Vengono trasportati all'interno della pianta. Proprio trasportati, cioè nel senso che all'interno della pianta siamo stati in grado di individuare dei punti, delle parti della pianta, che sia un albero, che sia un filo d'erba, ovviamente c'è in entrambi, dove ci sono proprio dei canali linfatici, vengono chiamati. Quindi delle parti della pianta che sono specializzate per il trasporto di sta roba qua, di queste soluzioni, appunto, di quest'acqua insaporita, mettiamola così. Quindi, ecco, appunto, questa acqua nutrienti viene trasportato, possiamo dire, con un'approssimazione abbastanza buona, verso l'alto della pianta, quindi dalle radici sale proprio in senso opposto alla gravità, per andare a finire intanto nelle foglie. Nelle foglie succede una cosa che appunto tutti probabilmente ormai sappiamo, che è la fotosintesi. Quindi qui avviene questo processo fondamentale per la vita delle piante, per la vita del mondo come lo conosciamo oggi, con tutte queste specie che ci sono oggi. E è quel processo fondamentale che permette di portare il carbonio, che normalmente sarebbe gassoso nell'aria sotto forma di anidride carbonica, appunto CO2, di portarlo, teletrasportarlo dentro la materia vivente, dentro gli esseri viventi sotto forma di molecole che, vabbè, sono carboidrati. Questa è una cosa veramente pazzesca, perché senza il processo della fotosintesi non ci sarebbe, diciamo, questa comunicazione tra noi e l'atmosfera, la nostra atmosfera terrestre. Cioè, noi non ci saremmo, ovviamente, e vabbè, questo lo sappiamo. Però diciamo che noi ci possiamo essere proprio grazie a questo processo. Come fa in non soldoni di più? Come fa questo processo a esistere? Le piante lo fanno, e questo l'abbiamo capito, però per farlo hanno bisogno della terza risorsa esterna che già appunto avevamo citato prima, che è quella dell'energia solare. Questo, se già, almeno a mio parere, il fatto di teletrasportare, fra virgolette, il carbonio dall'atmosfera alla materia organica vivente già era una cosa super affascinante, il fatto che per compiere la fotosintesi le piante usano l'energia solare, questo è immensamente più affascinante. Ora proverò a trasmettervi il perché. Yet you still insist. I can't believe that we've come to this. If every deal we have will fight, I think it's best that you forget me. Condemn your soul, but you're no right. What can I do if you won't let me? It's like you hurt me just for spite. Baby, tell me why you want me. Yo, me used to think say I'm a real dunder. I love you real under. You not have a thing for worry you head. You come mix up with the street and the chatter. We not speak but no matter. No ball of that I fuck with my mad. Now everything I seem to do is a problem for you. Have us arguing again and again. And when I try to speak to you, nothing I say is true. Hey, hey, what if every deal we got? Eccoci quindi, perché è così affascinante il fatto che le piante riescano a usare l'energia del sole per fare la fotosintesi, che poi serve a tutte e tutti noi, perché sono... scusate, mi interrompo un attimo, precisazione. Le piante fanno la fotosintesi, non sono gli unici esseri viventi che fanno la fotosintesi. Nello specifico ci sono delle microalghe e dei cianobatteri anche che fanno la fotosintesi. Ci tenevo a dirlo perché se uno va a vedere la quantità di fotosintesi che viene fatta a livello mondiale, appunto microalghe e cianobatteri non hanno assolutamente un ruolo secondario, ma tipo metà piante e metà loro, quindi è bene ricordarlo. E le microalghe, come si può intuire dal nome, stanno nell'acqua, nel mare in particolare, quindi diciamo che, insomma, per avere un po' un quadro generale. Quindi, cosa c'è di così magico No, immagino non mi piace come parola, ma così straordinario nel processo della fotosintesi è il fatto che è quel processo chimico che permette di usare l'energia del sole. Sì, questo l'avevo già detto, effettivamente è vero, però è difficile trasmettere il concetto, ma il punto è che è l'unico processo chimico della vita che riesce a prendere e usare l'energia del sole. Cioè, pensate a quanto sono tecnologie fighe i pannelli solari, che appunto fanno questa cosa qua di usare l'energia del sole, ma con un'efficienza un po', diciamo, ridicola, soprattutto paragonata a quella che invece hanno le piante e tutte le specie che fanno la fotosintesi. Quindi il fatto di riuscire a attingere a questa fonte di energia è semplicemente fondamentale per la vita, perché altrimenti non ci sarebbe la vita sulla Terra. E questa è una cosa molto molto interessante. Quindi le piante, i microalghe, i cianobatteri sono il tramite tra noi e il sole. Non è Dio, sono loro, mi dispiace. Yeah. Forget me, you know? Really, really love the production. Quindi, vabbè, non mi sto a dilungare su questo aspetto. Allora torniamo alle piante, che sono quelle che ci stavano interessando. Le piante nelle foglie, non solo, direi, in tutte le parti verdi, cioè nel senso proprio che noi vediamo verdi, tutte quelle parti lì compiono la fotosintesi. Le parti della pianta che con, diciamo, maggiore attività compiono la fotosintesi sono le foglie, però non solo, cioè infatti a volte anche i rametti sono verdi, a seconda della pianta magari anche tutto lo stelo è tutto verde, il che significa che tutta la pianta compie la fotosintesi. Quindi, diciamo, per noi il colore verde in questo caso è un indicatore molto, molto carino, diciamo, molto interessante da usare. Quindi, a cosa serve alle piante fare la fotosintesi? Li serve per, come avevo detto all'inizio, prendere il carbonio dall'atmosfera, quindi usare l'anidride carbonica per assemblare una molecola fondamentale che è lo zucchero. C6H12O6, quindi quel C all'inizio è il carbonio del CO2, cioè dell'anidride carbonica. Perché lo zucchero è così importante? Perché è buono, no scherzo, perché è una fonte di energia. Quindi, come anche d'altronde noi animali usiamo lo zucchero in questo modo, anche le piante è uguale, quindi gli serve quella molecola lì e anche altre, ma insomma, diciamo, lo zucchero, le molecole di carboidrati per immagazzinare energia. Poi, quindi, cosa succede? Vi direte, beh, la dovrà immagazzinare, dunque, cioè, c'ha tutte quelle molecole, le metterà da qualche parte. Sì, le mette da qualche parte, che spesso sono le radici, ma non per forza, può essere anche altre parti della pianta, dipende anche tanto dalle specie. Però sì, c'è uno stoccaggio di energia. Come noi abbiamo i grassi, la ciccia, va bene? Anche le piante ovviamente devono stoccare l'energia. Poi però quell'energia la dovranno anche usare, ovviamente, per fare tutta una serie di altri processi che sono, cioè, miliardi di altri processi di produzione di altre molecole chimiche che servono a tantissime cose. E quindi prendono quegli zuccheri e li scompongono. Nello scomporli esce energia, quell'energia che era intrappolata fuori esce e viene usata appunto per altre reazioni chimiche. E questo di base lo facciamo anche noi, ripeto, noi animali non siamo diversi in questo. Disaster, them sit down in the church with the ungodly pastor. Not change a nappy, but you rape off your daughter. Brother kill brother, I say all that no call for. Just watch your back when you are climb up the ladder. Fright if you see your friend, no more for put you in a blaster. I ain't afraid cause a time of the master. And we are judge a daughter. And I say why? Where they want go do in Jacob? Lord God now, I say why? Thy will will all. Allora, prima di passare quindi ad altri aspetti della vita delle piante, quindi preciso giusto un fatto, una cosa, che quindi, come avevamo detto, nutrienti e acqua vengono presi dalle radici, quindi dal suolo, vengono portate verso l'alto in tutti i posti in cui si esegue la fotosintesi, poi si esegue la fotosintesi e dopo quegli stessi zuccheri devono essere, come si diceva, trasportati all'interno della pianta. Quindi, di nuovo, abbiamo una seconda fase, diciamo, di trasporto, che è una fase distinta da quella dalla prima, diciamo, che abbiamo detto, proprio perché il liquido a quel punto è diverso, perché non si tratta più solo di acqua con dentro mescolati degli elementi singoli, il fosforo, il calcio, il magnesio, tutti i vari elementi singoli, ma si tratta di questa roba qua più lo zucchero. Ecco, per semplificare un po', questo cocktail, diciamo, viene comunemente chiamato linfa elaborata. Quindi lo volevo giusto dire, perché linfa elaborata ci sta che sia un termine già noto, era quindi per precisare che cos'è. Quindi questa linfa elaborata parte dalle parti della pianta dove è stata fatta la fotosintesi e va a giro ovunque nella pianta. Quindi se prima il trasporto era proprio in modo più preciso dalle radici verso le foglie, quindi verso l'alto, stavolta va dalle foglie a altre foglie, dalle foglie ai boccioli dei fiori, dalle foglie ai frutti, dalle foglie alle radici, dalle foglie alle gemme. Cioè è un gran mescolone di roba. Io, per immaginarmelo, poi magari direte sono pazza, però mi immagino quelle sequenze, quei video tipo delle città, tipo, non so, New York, queste città mega urbanizzate, mega popolate, di incroci stradali giganti con tutte, sia le persone che le macchine, che attraversano in tutte le direzioni. Io mi immagino questa cosa qua. Quindi la linfa elaborata va a giro. Yeah. And if we bring the attention to these beautiful, strong black women right here, we have Ovi, and we have Tori, and we say big up Ethiopia, that's where we are right now. A bunch of migrate ganja, you see me? Sing something for winner, man. Them never really teach me the dance moves, you see me? I will. Ok, quindi andando avanti, diciamo, andando avanti nella complessità del capire come funzionano le piante, sono esseri viventi anche loro, come abbiamo capito, e hanno delle fasi di crescita. Quindi se magari fino a qua, ormai per fortuna diversi decenni fa, le immaginavamo un po' come degli oggetti che quindi stavano lì, bene o male, invece no, sono molto vive, ovviamente, anche mi viene da dire, e quindi fanno cose, e fanno cose diverse a seconda del periodo dell'anno, a seconda della stagione, nel senso del clima che quell'anno c'è stato, se è più piovoso, meno piovoso, più caldo, più sole, meno sole, a seconda della loro età. Quindi se una pianta che ha un anno fa certe cose, e se quella stessa pianta poi dopo altri 20 anni ne farà altre. Quindi di cosa stiamo parlando? Di fasi di crescita. Per fare un esempio, su una pianta annuale, il che significa che nasce nel 2025, ecco, non arriva al 2026, cioè all'interno del 2025 è anche già morta. Non è una cosa triste, cioè è normalissimo, ci sono un sacco di piante annuali. Quindi queste piante annuali, per esempio, all'interno del loro anno, circa anno di vita, devono nascere, e già è un'impresa. Quindi il seme deve trovare le condizioni buone per schiudersi e germinare. Quindi germina, c'è la prima piantulina. La piantina deve crescere un tot, vi sto facendo un esempio tipo, comunque deve crescere un tot fino a che non accumula abbastanza energie e poi riesce a fare finalmente un fiore. Un fiore anche di più di uno. Comunque riesce a fare dei fiori. I fiori sono una parte importante della pianta e non lo sono perché sono belli e a noi piacciono, ovviamente sono perché alla pianta servono veramente tanto per riprodursi. Quindi il fiore è come il nostro sesso, non cambia niente, gli serve a riprodursi. Quindi fanno il fiore, poi il fiore se viene, cioè dovrebbe venire impollinato, poi dovrebbe venire fecondato e poi dopo la fecondazione c'è lo sviluppo del seme. Il seme può essere che si trovi all'interno di un frutto, come la frutta anche che mangiamo, di solito c'è i semi dentro, e quel frutto lì, o seme che sia, se non ha appunto un involucro carnoso, deve poi essere disperso, quindi deve muoversi, deve andare a giro, deve trovare una nuova casa, per poi ripartire il ciclo l'anno dopo. Quindi l'anno dopo poi quel seme lì, di nuovo, dovrà trovare le condizioni buone per germinare, e poi germinerà e poi si riparte in tutto quello che praticamente ho già detto. FX, you want this style, we come for take over. You must so think say we a fool where them step over. I have some liquor sauce soap where them make over. You know better go and go do the maths and take over. Wheel free, red run, go bet over. You see the hype, you see the bling, them broke them neck over. Yo, big crowd road where we get over. Yes, sir, we done with the food, give them the leftover. We just go hard and don't show we are the hardest. Yo, the road, it's a broad, we are the broadest. And yo, we not try no cat, we cardless. And everything will plug in, but regardless. And as a matter of fact, yes, regardless. Yo, after them attitude of them so heartless. And then you see them run around like them armless. Effects, you see, I show them love, car we are blessed. We just go hard and done. And bust up in the place, you people know what, like a gun. Voila! Don't know, skimming them, me and them and the big. Ecco, giusto per fare un altro esempio di un'altra tipologia di pianta molto diversa rispetto all'annuale, prenderei per esempio un albero, che non è ovviamente una pianta annuale, è una pianta perenne e quindi vive tanti anni e che quindi di conseguenza ha delle fasi di vita, delle fasi di crescita diverse. Per esempio fase riproduttiva, quindi quella in cui inizia a svilupparsi il fiore, in un albero ci sta che avvenga 2, 3, 5, 8, 10, 30 anni anche dopo che quella pianta è nata. Si chiama, quando si arriva a quel punto, maturità sessuale, semplicemente. Quindi succede che quella pianta lì ha bisogno di tanto tempo prima di arrivare alla maturità sessuale. Fun fact molto carino, ci sono alcune piante che... è veramente un mondo affascinante. Insomma, ci sono alcune piante che, alberi intendo, prima di essere arrivati alla maturità sessuale hanno le foglie fatte in un certo modo. Dopo, è pazzesco, dopo, quando iniziano finalmente a fare i fiori o sono in procinto di farli, le foglie cambiano, cioè la forma della foglia cambia. Perché questa cosa è così straordinaria? Perché quando uno... Immaginatevi un linneo che va in un prato o in un bosco e classifica le piante. Bene, la foglia è un elemento fondamentale per la classificazione. Quindi io vado a vedere la foglia, che forma ha, che nervature ha, come si mette sul rametto, un sacco di caratteristiche che mi servono a capire come è scritto in un certo senso il DNA di quella pianta, cioè che classificazione ha, appunto. Quindi questo fun fact, per esempio, si può riferire alla pianta dell'eucalipto, che magari potreste aver presente, insomma, una pianta diffusa anche in Italia, soprattutto sul mare, qui in Maremma si trova, insomma, se ne trova spesso, e è bellissimo perché le foglioline giovani sono tonde, ma tonde, un po' anche a cuore, e invece quelle appunto mature, cioè quelle quando la pianta poi è matura sessualmente, sono completamente diverse, sono tutte allungate, filiformi, a punta in fondo. Insomma, è proprio un mondo affascinante per quanto mi riguarda. Just a leak information to the five. Intel defense say we stuck up like a ILO. But yo, we not gonna get a hold of it with hydro. Because food of it, I mean say food of it. Just stay hard, you got to look it on the street effects. Food of it, I mean say food of it. Watch out, man, life ain't no alright. Food of it, say food of it, I mean say food of it. No stay hard, you have to look it on the street. I mean say food of it, I mean say food of it. Allora, ognuno di questi, diciamo, argomenti spot che vi sto dicendo si potrebbe approfondire ore e ore e ore e ore, ma ovviamente questa, in questo momento non è la sede giusta per farlo. Vi sto appunto dando delle informazioni molto generali, però mi piaceva farvi, diciamo, cogliere la complessità della fase riproduttiva della pianta, cioè del far sesso della pianta, se vogliamo continuare con questo paragone carino. Quando la pianta fa il fiore ha una parte che noi abbiamo chiamato maschile e una parte femminile, e queste due parti devono incontrarsi a un certo punto. Come succede a noi animali, ci deve essere un rimescolamento genetico, che nel nostro caso è fatto da appunto genoma maschile e genoma femminile. Nelle piante è simile. Per far sì che questa cosa avvenga, cioè l'impollinazione e la fecondazione poi, il processo può essere anche molto molto complesso. Per esempio, in alcune piante lo stesso fiorellino, uno prende un fiore, no? lo coglie, lo stesso fiorellino c'ha sia la parte maschile che quella femminile. A volte invece no, c'è solo quella maschile, poi ci sono altri fiori che hanno quella femminile. Sulla stessa pianta magari, però a volte invece no, non sono nemmeno sulla stessa pianta, quindi c'è il mandorlo per esempio, c'è l'individuo mandorlo maschio e l'individuo mandorlo femmina, e quindi per far sì che ci sia appunto l'impollinazione e la fecondazione, quei due mandorli, uno maschio e uno femmina, devono trovarsi bene o male vicini, non a decine di chilometri di distanza, se no non si incontreranno quei genomi diversi. Oltretutto poi il fenomeno dell'impollinazione è un fenomeno molto complesso, probabilmente saprete anche già cose al riguardo, tant'è che infatti in questo periodo storico si parla tanto degli impollinatori, eh sì, se ne parla tanto perché sono fondamentali, perché insomma per far sì che questi parti maschile e femminili si incontrino, questo può succedere in vari modi. Con magari, che ne so, c'è una folata di vento, allora il polline si stacca dal fiore maschile e poi casualmente si deposita sul fiore femminile, oppure succede che ci sono appunto gli animali impollinatori, per esempio gli insetti, ma non solo, anche i mammiferi a volte sono impollinatori e un sacco di altri animali, quindi è un processo complesso. Sappiamo probabilmente già tutte e tutti che per esempio alcuni insetti impollinatori devono avere un motivo molto forte per posarsi su un fiore, cioè quel fiore li deve attirare veramente veramente tanto, con gli odori, con delle molecole volatili, con i colori, con la temperatura. Insomma, è un fenomeno che ha, diciamo, ci è voluto veramente diciamo, nasconde veramente una grossa grossa complessità. Man, I sing, hey, what a thing, what a thing. Only positivity, I and I bring. What a thing, what a thing. When the Rasta man I sing, I stick it in, in, in, in. Oh, what a thing, what a thing. Pure righteousness we bring, hey. Come, give me the come, give me the come, give me the one drop. I rock as vibration, I play non-stop. I re-roots warriors, I never ever flop. And me said, Jaja music, I'm moving to the top. Reggae, grandfather of hip-hop. And me said, reggae, inspire enough artists in a pop. Move your body upon the rhythm and chop your hand up. Babylon, I get you in a trap. What a thing, what a thing. Ecco, siamo giunte quindi alla fine di questa puntata. Farei giusto una velocissima proprio carrellata di altre, praticamente per mettervi curiosità e basta, poi mi apre a spiegare nulla. Insomma, per darvi un po' l'idea di altre cose non meno fondamentali di quelle di cui abbiamo già parlato, che fanno le piante. Le piante si difendono ovviamente, quindi devono trovare il modo di raccapezzarsi con tutti gli altri esseri viventi e cercano di farle del male o di predarle, perché la vita è vita e morte allo stesso tempo, è tutta proprio due facce della stessa medaglia, e hanno metodi veramente particolari per difendersi, ma ripeto, ne parleremo poi. Le piante parlano in un certo senso, o meglio, comunicano. Non possiamo dire che parlano perché non emettono magari parole, o almeno noi non lo sentiamo, ma sicuramente, di questo siamo sicuri, che comunicano in continuazione con cosa? Con le piante vicine della stessa specie, con le piante vicine di altre specie, con le piante vicine della stessa specie che magari sono baby, sono nane, sono nate da poco e quindi hanno delle... diciamo dei bisogni diversi, quindi comunicano a loro un botto tantissimo. E qui, ragazzi, tornano di nuovo i funghi all'assalto, perché quel World Wide Web di cui parlavamo all'inizio qui di nuovo è fondamentale, perché ve li dovete appunto immaginare come delle infrastrutture di telecomunicazione, cioè dei pali della luce, delle ferrovie, delle robe del genere, che trasportano di tutto, i nutrienti, l'acqua, l'abbiamo già detto, e anche le molecole, anche i segnali elettrici, quindi tutta sta roba che serve a comunicare. Ripeto, non è meno importante di tutti gli altri processi della fotosintesi, della riproduzione, di tutto quello che abbiamo già detto prima, perché ogni organismo vivente è tale perché è complesso, e se no moriremmo probabilmente. Bene, quindi chiacchierano. Poi, per esempio, scambiano anche non solo informazioni, ma anche proprio sostanze, molecole, nutrienti. E questa appunto è una cosa super affascinante. Per esempio, appunto, si è studiato che una pianta madre, un albero madre che ha sotto di sé, o insomma, diciamo, nelle vicinanze, trova degli individui della sua stessa specie, che forse sono figli suoi o forse no, questo non è importante, ma insomma degli individui giovani, bene, la pianta madre gli passa i nutrienti, quindi li aiuta, gli dà la merendina da portare a scuola, non so come dire. E questa è una cosa fantastica. Altre cose che le piante fanno in parallelo a tutto questo di cui abbiamo già detto è... come si fa a spiegare? È sentire. Le piante sentono tantissimo, tantissime cose che noi fatichiamo anche a immaginarci, e sono proprio, noi possiamo fare il parallelo con nel caso della tecnologia, dei sensori. Cioè noi abbiamo il sensore di temperatura, no? Il termometro che infiliamo nell'acqua e sappiamo quanto è calda quell'acqua. Le piante hanno una serie di sensori che gli servono a sentire un sacco di cose dell'ambiente circostante, che sono tutte informazioni o stimoli, come si vogliono chiamare, uguale, che gli servono per regolare tutte le attività del loro metabolismo. E, giusto per dirne alcuni, sentono ovviamente la gravità, vabbè, quella la sentiamo anche noi, sentono la temperatura, sentono i gradienti chimici, quindi le salinità anche, sentono il magnetismo anche, sentono un sacco di roba diversa, con una, possiamo chiamarla, risoluzione altissima, veramente altissima. Una volta in una lezione mi era stato fatto un esempio del tipo, se uno si immagina una stanza molto molto grande, cioè tipo appunto ero all'università, quindi una sala universitaria, se diciamo la punta della radice è in un angolo della stanza e c'è una molecola di un elemento che loro sono in grado di sentire nell'angolo opposto della stanza, loro lo sentono. Quindi immaginando che questo, diciamo, sistema sia zoomato, no? Cioè andando un po' in zoom dentro il suolo, vedendo questa situazione, nonostante la distanza, la pianta riesce a sentirlo. Non chiedetemi come, ma ci riesce. Insomma, le piante sono pazzesche. From the nation, biological new gay and the food bomb. Scientists have studied genocide, annihilation, DNA war, ethnic violation. Who them really working for? Them working for Satan. He didn't want to turn the ghetto youth, them in a pagan. This is what they do every day. Them treat the ghetto youth every day. Babylon, them still make guns and bombs and chopper. Alright, this is for the girl, them a boy, them now I'm right. Like star, you know, dull like black. Read and write and spell and do your math. Some girl, them a talk and them dance like butter. Who trouble this, yo, who trouble that? Them a copy fears, a stone love the box. Through the sign of the minus, them with the subtract. Drive over cliff that rest, I don't crash. Forgot fi spell break, what a word to forgot. The one Caesar, same one pay for the lot. Did a lift and crack, now him dip on top. That can't spell nose, not nor nose back. Close young a river, them call close rock. What up? You know dance. Your friend a bounce. If you know set out food, not different from chunks. You know skull school for months. Your friend a bounce. If you know set the pound is different from chunks. E quindi eccoci giunti alla fine di questa puntata. Io mi sono divertita, è stata carina, spero che vi siano utili le informazioni della rubrica Attenta di Conta le Gemme. Porca miseria, non avevo messo la sigla, mi è venuto in mente solo in questo istante, vabbè non importa. E spero che vi sia piaciuta anche la poesia che vi ho letto, che mi hanno e ci hanno regalato sul pad. Io vi saluto, ci sentiamo lunedì prossimo sempre alle 19. Spero di riuscire quindi a trasmettere un po' di conoscenza, diciamo, scientifica e botanica sulle piante con questa nuova rubrica che ancora non ha un nome, tra l'altro andate libere e liberi con i suggerimenti se ce l'avete. E quindi niente, vi lascio per ora alla bobina di Wombat, forse sentiremo o le partite a Noiser o Slick Chick dopo. Quindi buona serata, ci risentiamo lunedì prossimo, io vi saluto con un ultimo brano e mi raccomando rimanete sintonizzate su Radio Wombat. Little Lion Sound, Evidence Music. É a Jo. Se conectar, se sacrificar, difícil. Querer estar com você mesma, mas o precipício faz desequilibrar. Você cair, levantar e se for preciso, volta do início. Se conectar, se sacrificar, difícil. Querer estar com você mesma, mas o precipício faz desequilibrar. Você cair, levantar e se for preciso. Tenho de falar a verdade. Não tô tão bem, difícil de expressar. Mas vou perder a rima se não for com honestidade. Eu não tô tão bem, mesmo assim tenho de me virar com esse sentimento de ansiedade, imperatividade. Mas também sem vontade, saudade da minha cidade. Ah, se conectar, se sacrificar, difícil. Querer estar com você mesma, mas o precipício faz desequilibrar. Você cair, levantar e se for preciso. Se conectar, se sacrificar, difícil. Querer estar com você mesma, mas o precipício faz desequilibrar. Você cair, levantar e se for preciso, volta do início. Tô tentando ajudar uma criança do passado que não me pertence mais, mas está sempre do meu lado. Memórias bloqueadas, protegidas por uma mente que não te deixa sofrer. Lembranças, asas, sobraram pra você. E dizem que faz mais forte, que é bom para amadurecer. Odiar tantos poucos anos e já gritando por você. Não era hora dos insanos me ensinarem tanta coisa, fazer planos para deixar de sofrer. Aprender a me proteger. Se conectar, se sacrificar, difícil. Querer estar com você mesma, mas o precipício faz desequilibrar. Você cair, levantar e se for preciso, volta do início. Se conectar, se sacrificar, difícil. Querer estar com você mesma, mas o precipício faz desequilibrar. Você cair, levantar e se for preciso, volta do início. Deitada na minha própria sabotagem, com preguiça do hiperfoco, descansando a culpa eterna da procrastinação de um louco. Pra ele louvo canções que me abençoam com refrões, respostas. curiosidade despertar, te dá vontade de procurar algo no caminhar, talvez um melhor lugar, na paz e no silêncio do sol. Um farol, dando um olá depois de toda a sua subida na montanha aquecida, do lado de lá. Se conectar, se sacrificar, difícil querer estar com você mesma, mas o precipício faz desequilibrar, você cair e levantar, e se for preciso, volta do início. Se conectar, se sacrificar, difícil querer estar com você mesma, mas o precipício faz desequilibrar, você cair e levantar, e se for preciso, volta do início. Volta do início. E se for preciso, a gente volta do início.